grazie Gesù, tu ci doni il cammino, il Calvario e la croce. Grazie Gesù, tu mi accogli come sono, nel tuo abbraccio sento pace. Grazie Gesù, tu ci apri il tuo cuore, fai fiorire la mia strada. Gesù, Gesù, luce vera, pace vera.